Olimpia, miti e verità dello sport di Dario Ricci. Bentornati a Olimpia, la città dello sport. Epici squilli di tromba ci accompagnano lungo il sentiero che ci viene indicato oggi dagli dei dello sport. Cammino che ci porta di nuovo ai giochi di Berlino del 1936 per sfatare una leggenda a cinque cerchi e riscoprire un grande campione che proprio in quei giochi conquistò un trionfo straordinario. No, non stiamo parlando di Jesse Owens, il fenomenale velocista afroamericano che a Berlino vinse ben 4 ori su 100, 200, staffetta e salto in lungo, ma di un altro atleta nero, Cornelius Johnson, che trionfò nel salto in alto. E fu Johnson, e non come accreditato dal mito Owens, con la sua vittoria a far fuggire dalle tribune Hitler in persona, ben poco desideroso di stringere la mano a un vincitore tutt'altro che ariano. Intrecci e destini che riviviamo con un ospite che di salto in alto davvero se ne intende. Torinese, classe 1989, detentore del primato italiano assoluto con la misura di 2 metri e 34 centimetri. Marco Fassinotti, grazie per essere oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato a partecipare. Beh Marco, parliamo un po' di te, stai trovando un'ottima continuità ad alto livello direi quest'anno. Sì, diciamo che il fattore di maggior fiducia è quello di una certa consistenza a livello tecnico, che mi ha consentito quest'inverno di fare prima 2.32 e poi 2.34, quindi questo vuol dire stabilità, e la stabilità appunto è il primo passo per esprimersi ad alto livello sotto stress, quindi in competizioni molto importanti. A livello internazionale quali sono i saltatori più accreditati? Al momento il salto in alto sta vivendo una piccola epoca d'oro, nel senso che nell'arco degli ultimi 2 anni sono state 4-5 persone che sono riuscite a saltare 2.40, e, in particolare al momento i più forti sono un ucraino, Bogdan Bondarenko, e un ragazzo del Qatar, Mutaz Barshim. Poi chiaramente in Russia c'è una grande tradizione, quindi ci sarà sempre qualche russo in pedana a dare del filo da torcere a tutti. Ecco, raccontaci un po' com'è nata la tua passione per il salto in alto. Io personalmente mi sono appassionato al salto in alto perché mi ha consentito di mettermi molto in relazione con me stesso. Chiaramente il primo obiettivo che uno si pone nella gara è quello di superare l'asticella prima degli avversari, e questo ti costringe a confrontarti con quelle che sono le tue paure, le tue aspettative, tutta una serie di cose che hai interiormente. Il modo più bello, tra virgolette, per farlo è quello di trovare la forza e la libertà dentro se stessi per esprimersi, e quindi secondo me è un fortissimo mezzo di espressione, quello, come specialità l'alto ti consente veramente di esprimere quello che sei. Quindi il salto come espressione non solo sportiva, ma se capisco bene quasi artistica, no? Assolutamente sì, e poi anche fisicamente è una delle poche specialità dove lo spazio tu lo usi in maniera libera, perché la tua traiettoria di curva, la traiettoria della rincorsa, il movimento che fai in aria non è mai dettato da una linea che c'è per terra come può essere la corsia della corsa, quindi ognuno è veramente libero di muoversi in quello spazio nel modo in cui crede. Non solo gesto sportivo quindi, ma profonda e intensa espressione della propria creatività, del proprio istinto, della propria libertà. Deve averle provate anche lui, Cornelius Johnson, tutte queste sensazioni, mentre si stava giocando l'oro sulla pedana dello Stadio Olimpico di Berlino, quel 2 agosto del 1936. Der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Lo Stadio Olimpico di Berlino è tutto esaurito, in migliaia sugli spalti. Sul prato, in pista, sulle pedane di gara ancora l'eco delle parole con cui Adolf Hitler, il Führer in persona, ha aperto i giochi appena 24 ore prima. Come ci ricorda Nicola Sbetti, membro della Società Italiana di Storia dello Sport e autore del libro Giochi di Potere, Olimpiadi e Politica da Atene a Londra, edito da Mondadori. Il 2 agosto, innanzitutto, è il primo giorno di gare delle Olimpiadi. I giochi erano stati inaugurati con una maestosa cerimonia il giorno precedente, il 1 agosto, e il 2 agosto si inizia con l'atletica, la regina degli sport. Erano già state 2 finali, il lancio del peso, in cui era andato tutto alla perfezione per la propaganda nazista orchestrata da Goebbels e da Hitler, perché aveva vinto un tedesco, e sui gradini, sugli altri gradini del podio c'era un finlandese e un altro tedesco. Si erano poi corsi 10.000 metri, in cui, come da pronostico, c'era stata la tripletta finlandese, e anche qui, in questo caso, tutto sommato poteva andare bene per quella che era la visione nazista del tempo. E non è un caso, infatti, che mentre intanto si disputava questa competizione del salto in alto, Hitler aveva chiamato a sé i vincitori del lancio del peso di 10.000 metri e li aveva premiati. Ma in un angolo dello stadio sta accadendo qualcosa che Hitler non aveva previsto. La questione si complicò con il salto in alto, anche perché c'erano due atleti afroamericani, Cornelius Johnson e David Albritton, che stavano disputando una gara eccezionale, e quindi stavano mettendo in cattiva luce gli atleti tedeschi, che comunque erano considerati anche loro i favoriti, quantomeno dalla stampa tedesca. Chiaramente nel frattempo si stava anche facendo tardi, e Hitler a un certo punto si alzò dal suo palco d'onore e se ne andò. Fuga comprensibile solo alla luce di quanto stava accadendo in campo, con un perfetto stile di salto ventrale. Sarà un altro americano, Dick Fosbury, a stupire il mondo a Messico 68, superando l'asticella prima con la schiena e poi con le gambe. Il 23enne Cornelius Johnson, di Los Angeles, già quarto 4 anni prima nei giochi disputatisi proprio in California, conquista l'oro con la misura di 2 metri e 3 centimetri, davanti all'altro nero Dave Albritton. Ora possiamo anche concedere a Hitler un attenuante, poteva avere qualcos'altro da fare. Certo è che è molto più probabile pensare che, dopo aver premiato atleti cosiddetti ariani, non aveva nessunissima intenzione di premiare invece Johnson e Albritton, che poi finirono rispettivamente primi e secondi, con anche misure ragguardevoli per l'epoca, perché 2,3 metri per Johnson e 2 metri per Albritton, la medaglia d'argento. Il Comitato Olimpico Internazionale, piegato ai dettami nazisti in molti aspetti di quei giochi, prova a fare la voce grossa con Hitler, come spiega ancora Nicola Sbetti. Il presidente del CIO, il belga Bayer Latour, informò tramite il membro tedesco Karl-Litter von Halt che quello che aveva fatto Hitler era una violazione delle regole olimpiche, ovvero o premiava tutti gli atleti oppure nessuno. Il fatto che dimostra che probabilmente, diciamo, la scelta di Hitler non fu per altri impegni, ma proprio perché non aveva alcuna intenzione di stringere la mano e premiare degli atleti afroamericani, sta nel comunicato che uscì il 4 agosto, comunicato ufficiale, in cui fu detto che da quel momento in poi il Führer non avrebbe più premiato sul suo palco alcun vincitore, giustificando sul fatto che il numero di vincitori sarebbe stato troppo alto. Quello che fece Hitler fu premiare privatamente solo i vincitori tedeschi. Furono dunque Johnson e Albritton a far fuggire il Führer dalla tribuna d'onore dell'Olimpico di Berlino. E Jesse Owens? A lui la storia riservò un ruolo diverso. Ad accomunarlo a Johnson, però, non solo il trionfo olimpico, ma anche l'ancor più amara discriminazione subita una volta tornato in patria. Jesse Owens vinse 4 medaglie d'oro, dominò l'Olimpiade, fu il grande protagonista di quell'Olimpiade, fu anche applaudito dal pubblico, distrusse, come assieme ai suoi compagni di squadra afroamericani, insieme quindi a Johnson, insieme a Albritton, ma a una decina di compagni afroamericani che andarono a medaglie, distrusse le teorie razziste del nazionalsocialismo tedesco. È chiaro appunto però che a posteriori, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Owens era un mito, quando gli Stati Uniti avevano vinto la guerra, quando la memoria storica delle imprese di Johnson andava sparendo, era molto più efficace dire che era stato Owens a essere discriminato che non il povero Johnson, che purtroppo nel frattempo era anche scomparso. Personalmente Owens non ebbe mai nulla da dire contro, contro Hitler, mentre si sentì maggiormente discriminato dal presidente statunitense Roosevelt, che per motivi elettorali invece non lo volle ricevere assieme agli altri vincitori statunitensi una volta rientrato in patria. Marco Fassinotti, abbiamo rivissuto la parabola, la leggenda, ma anche la verità storica del successo di Cornelius Johnson a Berlino il 2 agosto del 1936. Una curiosità, Marco, tu preferisci concentrarti in silenzio o richiedi magari il sostegno del pubblico poco prima dei tuoi salti? Sì, c'è chi chiede silenzio, a me personalmente chiedere la clap piace abbastanza, è un modo per sentire... Si cancellano un po' di insicurezze, si viene un po' catapultati in un mondo probabilmente anche mistico, perché tutto il contesto diventa parte di quello che stai facendo tu, e quindi in questo senso tu sei al centro della scena e trovi sicuramente più forze di quelle che avresti magari ad affrontarlo al campo da solo. In questo senso, per esempio, pochissime persone hanno saltato di più in allenamento che in gara, perché in gara a livello di adrenalina, a livello di stimolo, eccetera, si trova sempre quel qualcosa in più. Non ne abbiamo certezza, ma certo è bello pensare che Johnson possa in qualche modo aver goduto dello sgarbo fatto al Führer, no? Ma intanto spesse volte nelle gare in realtà si finisce poi per essere più lucidi su quello che ci accade intorno che magari nella vita normale, quindi possiamo anche pensare che se ne accorse in realtà. E sicuramente penso che a lui abbia fatto piacere dopo la gara, nel momento in cui l'ha scoperto, quello sì. E poi, come dicevo prima, sicuramente lui in quel momento aveva in mente quella che poteva essere la situazione politica e sociale, e quindi nel suo modo di gareggiare, di esprimersi, sicuramente questa cosa da qualche parte c'è stata, questo pensiero sicuramente è stato presente. Marco, ti chiedo ancora, che effetto fa vedere il cielo mentre si sta superando quella fatidica asticella? Devo deluderti, è una domanda che mi fanno in molti. In realtà il tempo è talmente breve che ci si rende conto di aver superato almeno l'asticella solo nel momento in cui si tocca il materasso, però la soddisfazione è veramente tanta, e c'è felicità, leggerezza, ci si può mettere di tutto in quei momenti lì. Istanti infinitesimali che possono però restare nella storia per l'eternità, come è accaduto al salto di Cornelius Johnson. Marco Fassinotti, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi e grazie a tutti. Olimpia, miti e verità dello sport. Game, set and match. Follow Fognini. 6-4, 6-4. I mean, right now, I'm happy because Kiko, abbiamo vinto uno slam, cazzo. Romano Bellelli and Fabio Fognini are doubles champions at the Australian Open for 2015. Well done. Beh, più che esplicita viene da dire la gioia di Fabio Fognini, che in coppia con Simone Bolelli ha conquistato l'Australian Open, superando i francesi Mahut e Herbert per 6-4, 6-4 e riportando la vittoria in uno slam, un doppio italiano 56 anni dopo l'ultimo successo azzurro. E che successo quello che i leggendari Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola conquistarono nel 1959 sulla terra rossa del Roland Garros a Parigi, battendo Roy Emerson e Neil Fraser per 6-3, 6-2, 14-12. Coppia straordinaria e vincente, Pietrangeli-Sirola, capace di altre due finali nello slam, a Parigi nel 55 e a Wimbledon nel 56. Sei finali a Roma, detentrice del record mondiale di vittorie, 42 in Coppa Davis. Normale allora che gli dei di Olimpia e del tennis ci chiedessero di bussare alla porta di Nicola Pietrangeli. Signor Pietrangeli, grazie per essere oggi cittadino di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi, eccomi qua. Signor Pietrangeli, sono passati 59 anni dal vostro successo a Parigi, come ricordavamo, e ora ecco la vittoria in Australia di Fognini e Bolelli. Due vittorie che si possono in qualche modo paragonare, secondo lei? Allora, non vorrei essere troppo presuntuoso, per carità, quello che hanno fatto i due ragazzi, bravissimi, bellissimo, e rimarrà scritto, importante questo, che rimarrà scritto sulla coppa, però bisogna così, senza, perché ogni tanto mi voglio fare un complimento. Vediamo chi hanno battuto in finale loro, vediamo chi abbiamo battuto in finale noi. Questo è molto importante, però come dicono i francesi, intanto fallo e loro l'hanno fatto. Quindi dal punto di vista, come posso dire, risultato bellissimo. Dal punto di vista tecnico, se Bonelli e Fognini avessero battuto questi due giocatori al torneo di, dico per dire, Francoforte, non sarebbe neanche stato scritto sul giornale. Bonelli e Fognini sono un ottimo doppio. Ma certamente Mahut e l'altro, non so neanche come si chiama, beh, insomma, avessero detto di giocare la finale di un grande slam contro questi due qua, io avrei scommesso qualsiasi cosa sui nostri. Sempre schietto Nicola Pietrangeli. Di certo il più grande tennista italiano, con due successi e altrettanti finali in singolare a Parigi e due vittorie a Roma, oltre che capitano non giocatore dell'unico successo italiano in Coppa Davis in Cile nel 1976. In effetti i vostri di avversari avevano tutto un altro spessore, signor Pietrangeli. E noi abbiamo battuto quello che fino a due anni fa aveva il record dei grandi slam vinti. Fraser non aveva vinto tutti i campionati possibili e immaginabili, meno Parigi. E qui stiamo parlando di due sconosciuti. No, non conosco bene il percorso di Bonelli e Fognini, quindi ripeto ancora una volta, bravissimi, però, insomma, non è imbarazzante, perché sembra qualcuno che è geloso. Io non sono assolutamente geloso, continuo a dire bravissimi. E giustamente loro non scelgono chi, contro chi giocare in finale, sono capitati questi due e sicuramente loro anche in partenza erano molto contenti, tanto è vero che hanno vinto facilmente in due set. Vero pure però che il doppio è profondamente cambiato, oggi i migliori al mondo se ne tengono alla larga se non in rarissime occasioni. Sono diventati quasi due spot diversi, oggi poi basta vedere come giocano gli stessi Bonelli e Fognini, giocano una specie di misto come si giocava all'epoca. Però evidentemente si deve giocare così oggi, è sempre difficile fare dei paragoni, sempre difficile, prima era più facile, più difficile, bravi loro che l'hanno vinto, questo è un po' il discorso della Coppa Davis quando abbiamo vinto, noi non potevamo perderli, però era difficile andarci, era difficile arrivarci, perché io continuavo a dire, guardate che poi fra 10 anni, 20 anni, 30, sulla Coppa ci sarà scritto Italia, come qui sulla Coppa di Melbourne ci sarà scritto Bonelli Fognini. Poi chi ha giocato la finale non importa niente a nessuno, solo importa a loro, importa al tennis italiano che una coppia italiana ha vinto l'Open di Australia. Lei e Sirola, a cavallo degli anni 50 e 60, eravate, racchetta alla mano, quasi degli ambasciatori dell'Italia nel mondo. Le faccio sentire questo notiziario a firma di Rino Tommasi che celebra una delle vostre tante vittorie. L'Italia ha battuto per 4-1 gli Stati Uniti nella finale interzone di Coppa Davis. Ancora una volta il doppio ha rappresentato un punto sicuro per la nostra squadra azzurra. Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola hanno battuto in 4 partite l'improvvisata formazione americana del Reed. L'incontro, piuttosto facile nelle previsioni della vigilia, giustificava però qualche preoccupazione, in quanto Sirola ha affrontato questo incontro di Coppa Davis in precarie condizioni fisiche a causa di un infortunio al gomito destro. Per fortuna, accanto a Sirola abbiamo ammirato un grande Pietrangeli, che ha disputato nell'occasione la miglior partita di doppio della sua pur brillante carriera. Tante vittorie, certo, ma anche cocenti sconfitte. Ossi duri, ad esempio, i canguri australiani, eh? Two hot 5-4 for the Italians, Sirola and Pietrangeli, though not for Roy Emerson or Neil Fraser. If they could win the match, the Davis Cup remained Australia's. Pietrangeli applied his own cooling spray, and as it was 112 at Melbourne's Kooyong Stadium, he could do with it. Now with Emerson serving for the crucial match. Sirola volleys, a point for the Italians. Beh, grandi emozioni in ogni caso, signor Pietrangeli. Che coppia eravate, lei e Sirola? Allora, grandi amici, perché se no in doppio non puoi giocare, se non sei amico non puoi giocare. Noi abbiamo giocato per 10 anni insieme, o quasi. Però caratteri completamente diversi, ma veramente completamente diversi. Lui mi sotteva dicendo che io ero un arrampicatore sociale. Se non esce con le principesse non si diverte. Invece lui si divertiva ad andare all'osteria col fiasco di vino e la chitarra. Per carità, forse si divertiva più di lui, più di me, però eravamo completamente diversi uno dall'altro. Però in campo, evidentemente, la fortuna, un po' di bravura, ha fatto sì che, insomma, non eravamo cattivo doppio. Su, non faccia il falso modesto ora, Lei dice falso modesto, come... Ogni tanto mi gira, perché... la gente non si rende conto cosa vuol dire arrivare in finale a Parigi o arrivare in finale a Roma. Allora, la finale non conta, ha vinto due volte, sì, ma ha giocato quattro finali, ripeto, ho giocato sette finali di Grande Slam, perché ho giocato quattro singolari, due doppi e ho vinto un misto, anche pure un misto ho vinto. E qualche finale in più avrebbe potuto anche vincerla, vero? Diciamo che la prima del giocato contro Manolo Santana a Parigi, che sarebbe stato il mio terzo consecutivo, io praticamente non l'ho giocato, penso che a metà torneo io sono tornato a Roma. Quando l'ho detto al giudiziario, lui che io scherzassi, ecco, a metà torneo tu te ne vai a Roma, perché io lasciai mio figlio, ma non era tanto l'ansia, che ne so, cosa che non farei mai più al mondo oggi, ma mi era venuto scoscribizio di andare a tre giorni a Roma, ma oggi è impensabile che poi il detentore del titolo lascia il torneo e va tre giorni a Roma, ma che siamo matti, è una cosa veramente impensabile. Il giorno prima Santana aveva giocato la semifinale contro Rod Laver e perdeva 2-7-1. Io nello spogliatoio, poi c'era anche un riposo dopo 3-7, sono andato nello spogliatoio a parlare con lui per dirgli guarda tu hai sbagliato a fare questo, fai quest'altro, prova a fare questo, e lui poi ha vinto e poi mi ha battuto, io sono un bel mascalzone, potevi anche non battermi. E in doppio il rimpianto più grande qual è? Allora noi avremmo, ma sempre così pensando, avremmo potuto vincere Wimbledon, abbiamo giocato una finale contro Holder e Oswald, che erano più forti di noi, però abbiamo giocato due semifinali perdendo per la prima volta contro i due svedesi che poi hanno vinto, o perdendo un'altra volta stando 2-7-0 per noi e in vantaggio al terzo, al quarto, se non mi ricordo, e poi due messicani hanno vinto Wimbledon. Diciamo che se fosse mai stato possibile un Wimbledon ce lo meritavamo, insomma, vincere Wimbledon per un qualsiasi giocatore di tennis è il massimo, anche in doppio. Che peso ha oggi il successo australiano di Fognini e Bolelli per il nostro tennis? Beh, intanto è sicuramente una grande botta di ottimismo, di non dire più questi italiani non la beccano mai, insomma, vincere, ripeto, anche contro, perché non so bene il percorso, perché la finale se non la vincevano erano da picchiarli, perché insomma, però cosa vuol dire? Vuol dire, io spero che proprio in Fognini sia una bella spinta, perché Fognini ultimamente non ci siamo, perché ha giocato veramente, sono 3-4 mesi che gioca non male, malissimo. Questo potrebbe essere forse una svolta, speriamo. Fra un mese ci abbiamo anche la Coppa Davis, abbiamo un'incognita a giocare in Kazakistan, non sappiamo neanche dove è il Kazakistan, figuriamoci. Ma sicuramente c'è uno stato di ottimismo, uno stato di allora non siamo così scarsi, spero solo che continuino a giocare insieme, perché è un ottimo doppio. Lo speriamo davvero. Nicola Pietrangeli, grazie per essere stato oggi cittadino di Olimpia. Niente, grazie a voi. Anche per l'appuntamento odierno con Olimpia è tutto. Vi ricordo che potete riascoltarci in podcast dal nostro sito radio24.it e scriverci alla mail olimpia@radio24.it. Un grazie a Pietro Lacorte in regia. Olimpia torna, come sempre, domenica prossima alle 16:30. Ciao a tutti!